Honduras è un paese che è situato in Centro America, a sud del Messico c'è il Guatemala e quindi subito dopo c'è l'Honduras. Un paese che dagli inizi del secolo ha cominciato a subire questa, intanto da secoli, no? Da quando è iniziata la conquista, però la oppressione più recente è quella che vede protagonisti gli Stati Uniti e tutte le multinazionali bananera, come le chiamano in Honduras, cioè le multinazionali che utilizzano i monocoltivi di banana o di ananas per poi esportarla, trovando un clima ideale per diciamo coltivarli e una manodopera molto a basso prezzo. E l'Honduras, a partire dal 1900 ai primi del 2000, è sempre stato questa Repubblica delle Banane, in realtà, anche se è un termine brutto da utilizzare, però è sempre stata gestita da poche famiglie che hanno considerato l'Honduras come un loro negozio. L'Honduras è anche stato un paese in cui non c'è stata una sollevazione armata, una guerriglia, nella seconda metà del 1900, mentre in tutti i paesi circostanti, il Salvador, Nicaragua, Guatemala, ci sono stati dei movimenti di liberazione nazionale, delle vere e proprie guerriglie con un disastro di morti. L'Honduras era definita la portaerei degli Stati Uniti, la portaerei a terra degli Stati Uniti, perché proprio occupa un posto strategico in confine con il Nicaragua, dove c'erano i sandinisti, con El Salvador, dove c'era il farabondo Martí, e a nord con quello che è il Guatemala, e quindi da lì partivano tutte quelle che erano le operazioni militari coperte o non coperte, diciamo, da parte degli Stati Uniti per appoggiare i governi golpisti che stavano massacrando quei paesi. Quindi l'Honduras ha vissuto passivamente quello che è stato il movimento guerrigliero degli anni 70-80. Col passare del tempo si sono formate moltissime organizzazioni indigene e campesine e anche afrodiscendenti. Queste organizzazioni di base, assieme ai vari sindacati e altre organizzazioni popolari che lottano per i diritti umani, hanno cominciato a intraprendere la loro lotta a livello pacifico. Questa lotta negli anni ha portato a moltissimi assassinati di dirigenti, prigionieri politici, violenze di vario tipo, sono sempre perpetuate da gruppi paramilitari assoldati dai grandi proprietari terrieri, da questi che sono 10 famiglie, tra cui i nomi sono tutti stranieri, nessuno di questi cognomi di queste famiglie è honduregno. Questa è la cosa più sorprendente. Molti sono arabi, alcuni sono di origine italiana. Cosa succede? Il presidente che era stato eletto, che veniva dal Partito Liberale, quindi un liberale, un capitalista, un grande proprietario terriero, anche si dice fosse nel traffico di legna, perché lì è un problema nel sud del paese, ci sono quelli che si chiamano madereros, tirano giù i boschi e esportano la legna pregiata in altri paesi. Organizzazioni sociali indigene e campesine hanno intrapreso questa lotta anche contro i madereros e contro questi grandi latifondi, contro migliori condizioni nelle maquiladoras, che sono queste grosse fabbriche che poi appartengono principalmente a multinazionali statunitensi, coreane, giapponesi. Cosa succede quindi con le elezioni di Zelaya? Dopo 2 anni comincia a dialogare con le organizzazioni civili, con le organizzazioni campesine. Palazzo presidenziale, la casa presidenziale, tutto un tratto si apre al popolo realmente, perché lì avevano accesso appunto dirigenti e organizzazioni indigene che, per il razzismo secolare che c'è in Centro America, sono delle classi che normalmente sono escluse dalla partecipazione politica soprattutto in istituzioni di questo tipo, nonostante siano la maggioranza, tra l'altro, della popolazione di questi paesi, di questo continente. Zelaya sembra che a metà del suo mandato circa, sembra che si converta a quello che è il socialismo del XXI secolo, l'esperimento bolivariano chavista, L'esempio di Evo Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, Nicaragua comunque con la sua rivoluzione sandinista piena di contraddizioni, pienissima di contraddizioni, comunque creano un blocco, quello dei paesi dell'Alba, l'alternativa bolivariana all'America Latina. Honduras entra a far parte dell'Alba, questo è il primo, diciamo, passo falso, tra virgolette, di Zelaya, verso chi ha sempre controllato con un burattino il governo dell'Honduras, cioè gli Stati Uniti. Per cui inizia questa prima rottura con l'entrata all'Alba dell'Honduras. Secondo, inizia un dialogo aperto con le organizzazioni di base. Terzo, Zelaya propone quella che era una, diciamo, un'inchiesta d'opinione non vincolante, che non è un referendum, però è un, diciamo, il passo precedente al referendum. Questo referendum era stato chiamato per il 28 di giugno di quest'anno. I mezzi di comunicazione honduregni cominciano a fare questa campagna contro Zelaya, accusandolo di essere chavista, narcotrafficante, di avere rubato tantissimi soldi, di cercare il pretesto di una reelezione, perché questa inchiesta d'opinione praticamente prevede a due domande. Queste domande erano se si volesse una nuova assemblea nazionale costituente e se si potesse fare referendum su questa assemblea, quindi una quarta urna alle elezioni presidenziali di novembre 2009. È stato tanto il terrore delle élite di queste 10 famiglie honduregne che addirittura non hanno aspettato la quarta urna e il risultato di un referendum. E in effetti il risultato di un referendum, se avviene, poi è difficile da controbattere. Invece loro hanno fatto il colpo di Stato direttamente il 28 giugno. 5 giorni prima del colpo di Stato, il potere esecutivo, che ormai non rispondeva più a Zelaya, nonostante lui fosse il presidente, emette però un decreto che vieta qualsiasi tipo di consulta 6 mesi prima o dopo di un'elezione. Per cui ovviamente la consulta popolare del 28 giugno diventava incostituzionale. L'esercito, che fino a quel momento era stato più o meno al lato di Zelaya, il generale dell'esercito rifiuta l'ordine di procedere a distribuire le urne dell'elezione. Zelaya quindi lo licenzia e decide, assieme all'appoggio del Frente Popolare, o quello che sarebbe divenuto il Frente Popolare, cioè tutte queste organizzazioni che ormai da settimane stavano dormendo fuori casa presidenziale proprio perché si presentiva che ci fosse un pericolo diretto al presidente, tra l'altro vittima di un attentato un mese prima, un comando armato ha sparato due colpi sulla macchina senza causare danni, però insomma era tutta questa campagna di terrore cominciava a montarsi. Quindi il 28 giugno Zelaya decide di, assieme scortato dal popolo, da tutte queste persone che lo appoggiano e che appoggiano l'Assemblea Nazionale Costituente, entrano nelle installazioni della Forza Aerea honduregna, prendono le urne e le distribuiscono. A quel punto, diciamo che lo smacco è diventato insostenibile per i militari e quindi si procede a fare il colpo di Stato. Questo colpo di Stato avviene nella maniera più troglodita, più brutale e più medievale che uno possa immaginare, cioè un comando armato entra con passamontagna delle forze speciali dell'esercito, entra di notte a casa del presidente, lo prende in mutande, dà tempo di mettersi un pigiama, lo portano alla base aerea, lo caricano su un aereo, questo aereo fa prima scalo alla base americana di Palmerola e da lì lo portano a Costa Rica, San José di Costa Rica, lo scaricano lì e lo buttano lì. A quel punto scatta la denuncia internazionale, nel frattempo i golpisti fabbricano una lettera di dimissioni di Zelaya, la leggono in televisione dicendo che Zelaya ha rinunciato, per cui... Però ovviamente queste cose cominciano giornalmente a smentirsi, un po' come succede con Berlusconi, un giorno dice una cosa e il giorno dopo non è vero. Lo stesso accade con la situazione in Honduras, dove i mezzi di comunicazione appartengono a queste 10 famiglie. Quindi cosa succede? La gente protesta, la comunità internazionale insorge, Hugo Chavez comincia a fare i suoi soliti proclami, domani veniamo e veniamo a restaurare Zelaya, sia come sia, con la forza o non con la forza. Insomma, gli Stati Uniti, Obama, diciamo un po' forse inesperto ancora da questo punto di vista, si lascia andare e in un'intervista dice sì, c'è stato un colpo di Stato militare, lo define colpo di Stato militare più di una volta nella stessa dichiarazione. Il giorno dopo smentire ovviamente il suo portavoce dicendo che sì, si riconosce Zelaya come presidente, però la parola colpo di Stato svanisce da quello che è il dibattito pubblico. Lo stesso discorso vale per esempio per la linea del País, il giornale spagnolo, che all'inizio adesso condanna apertamente il colpo di Stato, 3 mesi e mezzo dopo, perché è davanti agli occhi di tutto il mondo, o quasi. Però all'inizio parlava di un presidente interino, che era Micheletti, il colpista. Cosa succede? A quel punto la gente nelle strade comincia a organizzarsi e crea quello che adesso si chiama Frente de Resistencia Popular contro il golpe di Stato. Sotto questo grandissimo, diciamo, ombrello di organizzazioni, ci sono sindacati, ci sono organizzazioni indigene, ci sono organizzazioni campesine, ci sono organizzazioni garifuna, ovvero gli afrodiscendenti della costa nord, ci sono i maestri, i tassisti, le casalinghe, le donne che vendono il loro chewing gum e le loro sigarette a unità per la strada, con il loro, le donne che vendono i loro pani portandoli sulla testa. Insomma, è una resistenza molto bella, un movimento popolare vero ed eterogeneo, cioè c'è di tutto. Ci sono anche i liberali contro il golpe, cioè la gente che votava Zelaya nel Partito Liberale, che però è spinta da questo sentimento di democrazia a loro modo, appoggia Zelaya come se lui impersonificasse la democrazia. Per cui all'interno del Frente comincia a esserci una doppia corrente. Questa corrente, da un lato ci sono i zelayisti, dall'altro ci sono quelli che vogliono la Assemblea Nazionale Costituente, che è realmente quello il punto chiave di tutto. Il punto attorno a cui gira il colpo di Stato non è Zelaya, non Zelaya, se no il punto attorno a cui gira tutto il colpo di Stato è l'Assemblea Nazionale Costituente. Se Honduras c'è un'Assemblea Nazionale Costituente fatta così come impulsata da Zelaya, cioè richiamando tutti i settori popolari per fare una nuova Costituzione sullo stile che può essere quello boliviano, Evo Morales, con una partecipazione popolare di assemblee per creare proprio quelle che sono le nuove leggi, questo consoliderebbe un paese all'alba, gli Stati Uniti. Negli ultimi 15 anni hanno sicuramente perso di vista l'America Latina, perché erano impegnati in Iraq, perché erano impegnati in altri posti. È stata un errore o comunque gli è passato così, gli è sfuggito, no? E quindi hanno perso il Venezuela è il paese socialista che, a parte avere tutti questo appoggio al presidente Chavez, c'è comunque un sacco di soldi, perché sono seduti sul più grande giacimento di petrolio e di gas naturale del mondo. Quindi diciamo, si sta vedendo forse conformarsi quello che potrebbe essere una, di nuovo, come una guerra fredda, però a livello latinoamericano. Col passare del tempo la gente continua a scendere in piazza. A Tegucigalpa giornalmente ci sono stati 104 giorni di marcia. Ogni giorno ci saranno state minimo 5.000 persone, arrivare a massimo di anche 500.000 di persone o più nel giorno dell'indipendenza. Ogni giorno si scendeva in piazza. Tutto luglio è stato caratterizzato da fortissime repressioni. Agosto è stato un po' più tranquillo da questo punto di vista. A luglio, tra l'altro, cosa succede? Che Zelaya annuncia il suo rientro dopo 5 giorni. Lì è quando scatta veramente la resistenza a tutti gli effetti. Perché? Perché il 5 luglio lui, a bordo di un jet venezuelano, annuncia che ritorna in Honduras e lo fa facendo un paio di sopravvoli sopra quello che è l'aeroporto Toncontin. L'aeroporto Toncontin è ovviamente assediato dai militari golpisti, ovviamente hanno bloccato con delle macchine la pista d'atterraggio, quindi è impossibile, se tu sai che devi arrivare lì, insomma, non lo annunci alle televisioni, eccetera. Invece lui fa questi due giri, In tutto questo cosa succede? Che si affollano all'aeroporto più di 500.000 di persone, tutte ad aspettare Zelaya. E l'aeroporto è assediato dai militari, ci sono tiratori scelti. E da uno di questi tiratori scelti parte il colpo che nella massa uccide questo ragazzo che si chiama Isis Obed Murillo. È un colpo che serve per disperdere la massa, per creare il panico, perché avrebbero potuto fare veramente un massacro. Perché in realtà le scene dell'aeroporto sono incredibili, cioè ci sono decine e decine di migliaia di persone davanti a quella che è il recinto dell'aeroporto e i militari stanno sparando con i loro mitra d'assalto, stanno sparando per fortuna a terra. Se avessero sparato ad altezza di persona avrebbero fatto una strage. Strage che non avviene, avviene comunque il morto, cioè il martire, che uno dei martiri, adesso tanti martiri della resistenza, perché da quel giorno adesso sono caduti un sacco di compagni e compagni, e da lì inizia la rabbia popolare che comincia a manifestarsi però pacificamente giorno dopo giorno. Zelaya va in Nicaragua, anche da lì continua a fare i suoi proclami, dice che torna in Honduras, un giorno torna in Honduras, mette piede in Honduras, però poi appena cominciano a sparare i gas lacrimogeni torna lui in Nicaragua, scalda lo stato di sitio. Stato di sitio non è un altro coprifuoco permanente, solo che i golpisti continuavano a rinnovarlo ogni 12 ore, quindi il massimo che potevano dare era 12 ore, dalle 6 alle 6. E alle 6 dichiaravano di nuovo il coprifuoco fino alla mattina successiva, quindi era una cosa continua. La gente picchiata, la gente torturata, la gente stuprata, la gente terrorizzata, e che comunque da quel giorno ha continuato giornalmente a tornare per le strade, giornalmente, è una cosa forse mai vista, cioè 100 giorni di marcia pacifica, con tutte le perdite a livello umano, a livello fisico, a livello sentimentale, a livello economico, perché mantenere 100 giorni di sciopero costante non è cosa da poco. Col passare del tempo sembra che ci si avvicini un po' a una soluzione, perché nel frattempo Zelaya è andato in Costa Rica, hanno fatto gli accordi, il trattato di San José, questi accordi che prevedono la restituzione di Zelaya. Il governo golpista di Micheletti non diciamo prima si firma e poi si tira indietro su questi accordi. La resistenza honduregna accetta uno dei 12 punti di questo accordo, cioè la restituzione di Zelaya, però gli altri punti prevedono che Zelaya ritorni, che non possa impulsare la Costituente, che non possa cambiare gli alti carichi delle istituzioni come il Tribunale Supremo Elettorale, come la Corte di Giustizia, come i militari, come il capo dell'esercito, eccetera eccetera. Cosa succede? Che tutti questi carichi sono occupati o da gente golpista che gli ha fatto il golpe, oppure sono nuovi nel posto Zelaya, però proprio messi dai golpisti, quindi lui tornerebbe con le mani e i piedi legati. Ovviamente questa è una cosa che farebbe molto comodo più al governo golpista che alla resistenza, un ritorno di Zelaya. Zelaya ritorna all'improvviso a Tegucigalpa, i primi giorni di settembre, burla tutto il servizio di intelligenza dei golpisti e spunta all'ambasciata brasiliana. E ovviamente la resistenza è una festa grandissima quel giorno, e la gente pensa di avere ottenuto una vittoria di grandissime dimensioni, la restituzione di Zelaya. In realtà Zelaya torna nella sua ambasciata e è tuttora lì, sì, dopo 20 giorni è ancora chiuso lì dentro con centinaia di seguitori della resistenza, che tra l'altro è gente che non ha nessuna formazione a livello militare, a livello per stare lì a difendere un presidente, quando fuori ci sono 2.000 militari, forze speciali, che vogliono entrare e mangiarselo vivo. Però c'è l'immunità diplomatica dell'ambasciata e quindi si è creata questa situazione in cui Zelaya dall'ambasciata chiama il suo slogan lì, fa un po' ridere adesso vedendo, però dice patria, restituzione o muerte, e quindi ripigliando quello che è stato il grido della rivoluzione cubana, Ovviamente a Cuba la rivoluzione c'è stata, è a una sua fase che si possa non essere d'accordo con quella che è la rivoluzione cubana adesso, però era una rivoluzione fatta da gente che ha lottato e si è messa in prima persona davanti per questi propri ideali. Zelaya invece, patria, restituzione o muerte, il discorso è la morte di chi, perché lui lascia fuori dall'ambasciata 15.000 persone che rimangono lì tutta la sera. Arrivata sera il governo golpista annuncia il coprifuoco, la gente forte del numero di essere in 15.000 pensa di essere forte e di riuscire a resistere lì tutta la notte. Arrivano le 5 di mattina, la gente stanca, sta dormendo, entrano le forze speciali che sono i Cobra della polizia, chiamati Cobra, un battaglione di circa 600 individui super addestrati, forze speciali eccetera eccetera, con l'appoggio ovviamente dei militari, dell'altra polizia, entrano e massacrano le persone, le massacrano a manganellate, distruggendo tutto quello che trovano sul loro cammino, macchine, anche chioschetti da cui la gente della resistenza stessa vendeva da mangiare alle altre persone. Hanno distrutto tutto, incolpando ovviamente la resistenza di essere una resistenza violenta e di essere dovuto intervenire a causa di questa violenza della resistenza, che però stava lì realmente festeggiando e non aveva fatto nessun danno alle proprietà. Detto questo, la resistenza riceve un colpo durissimo. Il giorno dopo quella zona è un campo di battaglia. Ci sono pietre dappertutto, ci sono macchie di sangue dappertutto. Ogni tanto si incontra qualche bossolo di arma da fuoco che la polizia forse non ha visto, però hanno sparato pure con armi da fuoco, sicuramente in aria, non direttamente alle persone. Quei tipi di assassinato ci sono stati, ma non sono stati durante una manifestazione pubblica. Se non sono stati attacchi diretti a una o altra persona, spesso dirigenti sindacali o dirigenti di organizzazioni popolari. E quindi cosa succede? Arriva Zelaya, c'è questa resistenza, questo tentativo di difendere l'ambasciata, li massacrano. Il giorno dopo è incredibile, c'è ancora più gente per strada. La gente dice: andiamo, marciamo all'ambasciata, andiamo a vedere il presidente. E tutto sembra andare sempre nel verso giusto, finché la polizia riesce, insomma, si negozia con la polizia, la polizia lascia il passo, indietreggia, ed è praticamente la polizia è arrivata a due isolati da dove c'è il primo checkpoint per poi accedere alla zona, a quella che definite zona zero a Tegucigalpa, cioè questi 6-7 isolati, al centro c'è la strada dell'ambasciata. E ci sono proprio posti di blocco militari con lastre di cemento grandissime per evitare il passo ai veicoli, poi ci sono delle barriere di metallo, davanti alle barriere di metallo un cordone di militari, dietro un altro cordone di militari, insomma è una situazione abbastanza militarizzata e dove appunto non c'è accesso a nessuno in questi 5 solari. La marcia arriva quasi lì vicino, a un certo punto comincia a negoziare, come sempre misteriosamente qualcuno della resistenza, o un infiltrato ovviamente, lascia un pacchetto, una carta bomba accanto alla polizia, a uno degli angoli. La polizia era tutta schierata e i manifestanti erano schierati, ormai quasi stavano andando via, perché a quel punto avevano deciso di non tentare di sfondare il cordone, sino di negoziare con la polizia. Insomma, scoppia la bomba, la repressione e tutto. Giorno dopo spuntano soltanto 300 persone, perché nella notte il governo emette questo decreto barbaro in cui sospendono tutte le garanzie costituzionali individuali, il diritto di riunirsi, il diritto di andare, all'inizio erano più di 5 persone per strada, poi l'hanno aumentato a 20, la libertà d'espressione, hanno chiuso quelle che erano le uniche due emittenti, una radio e una televisiva, che erano non tanto della resistenza però se no contro il colpo di Stato, perché in realtà si trattava di due emissore commerciali, entrambe appartenenti a due impresari che spesso seguono il vento che conviene loro, in questo caso i loro interessi stavano contro il colpo di Stato e quindi anche a favore della resistenza. E in tutto questo la gente comincia ad avere paura, perché di notte c'è il coprifuoco, i militari scorazzano per scorazzano per la città con le loro armi automatiche, sparano sulle case, sparano lacrimogeni dentro le case, non va a fare salire la gente. È un governo che non solo ti dà il coprifuoco, ma se tu rispetti il coprifuoco ti vengono pure a rompere i coglioni dentro casa, tentando di tirarti fuori da lì, e se ti pigliano sono, con le leggi del nuovo decreto, 10 anni di perseguizione. Prigionieri politici sono tantissimi, però sembra che quando tutto insomma andava per la restituzione di Zelaya, con la visita dell'Organizzazione di Stati Americani, quando sembra che ormai si stanno riunendo per definire gli ultimi dettagli, il governo di Micheletti dice: non avete capito nulla, non avete capito nulla, dimostrando ancora, diciamo, la sua ottusità, perché non vede che un'elezione il 28 di novembre sarebbe una perfetta transizione nel colpo di Stato, perché lì vincerebbe sicuramente uno dei due partiti, il nazionalista o il liberale, che sono i partiti che tra l'altro sono golpisti, hanno partecipato al colpo di Stato. La comunità internazionale ha detto che loro accettano queste elezioni solo se c'è Zelaya, e sarebbe perfetto, torna Zelaya, le elezioni sono legittime, un paese democratico, ci sono state elezioni, e poi continua tutto come prima. Non c'è più la costituente, quindi quella se la sono tolta di mezzo. E invece Micheletti cosa dice? Non avete capito un cazzo. E voi, signori della OEA, non siete venuti qui, mi dispiace che non siete venuti per ascoltare realmente cosa succede in Honduras. Quindi io vi dico che qui ci saranno elezioni, vi piace o non vi piace, il 29 di novembre. E non abbiamo paura di nessuno, né degli Stati Uniti. Non si capisce a questo punto quindi dove va la cosa. Gli Stati Uniti sembravano che avessero fatto una partita di scacchi incredibile. Hanno fatto una strategia perfetta, facendo credere al mondo di condannare il colpo di Stato, schierandosi quando si dovevano schierare. Quindi un colpo di Stato militare nel 2009 in Honduras non è altro che il riflesso di una mentalità molto molto ampia dentro degli Stati Uniti, soprattutto del circolo dalla parte repubblicana, delle mafie cubane venezuelane di Miami, e da questo piano imperialista di ritornare a mettere i denti e gli artigli sull'America Latina, partendo adesso da sopra. Questa parte di qua, nel nord, in questo momento si è creato anche un blocco tra Nicaragua e El Salvador, sono comunque paesi che hanno una loro linea sicuramente apertamente antagonista agli Stati Uniti, per cui se ci si mette anche Honduras diventa un blocco pericoloso, c'è anche Cuba che non è distante, e ovviamente il blocco bolivariano, per cui bisogna rapidamente disfarsi di queste idee stupide e razionali, quali potrebbero essere quelle di giustizia sociale, democrazia partecipativa, eccetera eccetera, e ritornare a implementare con qualsiasi metodo possibile la falsa democrazia dei colpi di Stato. Se dovesse realmente continuare il colpo di Stato e esserci questa transizione elettorale parlamentare, questo è un esempio pericolosissimo per quelli che sono poi i paesi come El Salvador, Guatemala, dove le istituzioni militari sono delle istituzioni militari comunque molto potenti, molto poderose, molto corrotte, per cui un domani potrebbero fare la stessa cosa con i rispettivi presidenti, prenderli, metterli su un aereo, portarli a San José e fanno firmare lo stesso accordo più o meno con altri mediatori, e lì si ritornerebbe a questa dinamica. E l'Honduras è lì con la gente che resiste, con la gente che non ha molta idea di come resistere, perché essendo stata così tanto tempo sotto quello che è stato il controllo statunitense, essendo stata una colonia a tutti gli effetti, ma fino ad oggi purtroppo, cioè questo lo si vede nelle grandi piantagioni di banane oppure nelle grandi maquiladore, queste fabbriche dove non ci sono diritti per i lavoratori. Lo si vede dal fatto che l'Honduras ha 70% della popolazione che vive sotto il livello di povertà, e di questo 70% l'80% vive sotto la soglia di povertà estrema. Quindi è una situazione in cui il popolo sta tentando di capire come fare per riuscire a evadere questo spettro, riuscire a dare scacco a questa partita. E adesso la situazione che lascia molti con il punto interrogativo è se in Honduras ci sarà o no un movimento armato di resistenza. Fino a oggi non c'è stato. Molta gente si domanda se sì ci sarà o non ci sarà. Questo purtroppo non è una cosa che possiamo sapere. L'unica cosa è che in questo momento ci sono stati tantissimi morti, c'è stata una comunità internazionale totalmente assente che ha fatto il gioco dei golpisti, e quindi la gente non rimane altro che resistere e tentare di decidere il proprio destino da soli. Sulla partecipazione o no nel colpo di Stato in Honduras di quelle che siano forze speciali israeliane, non c'è nessuna conferma ufficiale, perché ovviamente queste operazioni e questo tipo di cose non vengono fatte facendo le comunicazioni sui giornali, eccetera, eccetera. Il presidente dell'Organizzazione per la Difesa dei Diritti Umani in Honduras, che si chiama Andrés Pavón, ha parlato esplicitamente, facendo nome e cognome, di un militare israeliano che era venuto lì per supervisare un piano di controinsurgenza in Honduras e che sarebbe tornato a novembre per poi supervisarlo direttamente. Però in questi ultimi giorni quello che si è visto è stata una dichiarazione aperta da parte del governo honduregno, il governo di fatto honduregno, cioè il governo golpista honduregno, perché attraverso quello che è il principale giornale golpista, che si chiama El Heraldo, hanno pubblicato un articolo in cui spiegavano il funzionamento di un nuovo strumento che, grazie all'esercito israeliano, alla bontà e alla generosità dell'esercito israeliano, aveva acquisito l'esercito e la polizia honduregna, cioè il cannone, lo screamer, quello che chiamano lo screamer, che è questo cannone acustico, e descriveva compiaciuto, descriveva l'autore dell'articolo, come la gente si cade ritorcendosi dal dolore a causa di questi suoni fortissimi nel giro di 3 chilometri. E tutto questo grazie all'esercito israeliano si è finalmente potuto ottenere in Honduras, e finalmente lo avrebbero utilizzato nelle prossime manifestazioni. Quindi, in quanto alla partecipazione, in quanto alle dotazioni dell'esercito, alle munizioni, ai gas che sono stati utilizzati, i gas lacrimogeni che sono stati utilizzati in Honduras, ci sono forti indicazioni che siano state proprio portate una donazione dell'esercito del governo israeliano al governo di Micheletti. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. El porvenir, de pie cantar. partido.